Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ne stanno nascendo in tutti i comuni, sono gli orti urbani delle aree a disposizione dei cittadini per coltivare frutta e ortaggi ad uso personale. Insomma, degli orti di quartiere. Ormai li troviamo a Milano, nell'area dell'ex ospedale Paolo Pini, a Roma, nel parco dell'Appia Antica, a Torino, a Napoli, e ora si stanno diffondendo anche in realtà più periferiche come Terni, dove in occasione del Festar Club, un festival dedicato alle Smart City organizzato dai giovani architetti di Terni, è stato presentato un progetto di riqualificazione che va sotto il nome di Metal Mezzadro e punta alla riconversione sostenibile dell'ex lanificio Gruber, un sito industriale situato in una zona critica tra la città e la vasta area delle acciaierie di proprietà ThyssenKrupp. Chiara Albicocco ne ha parlato con l'ideatore del progetto, Simone Scacchetti, ingegnere e presidente dell'associazione Intervalli, volta alla valorizzazione degli spazi rurali. Sentiamo allora com'è andata. Abbiamo ideato questo workshop Metal Mezzadro e l'abbiamo inserito all'interno del programma del festival Festark Club, che è organizzato anche con la collaborazione di Stefano Boeri, già ideatore del Festark che si è svolto a Perugia a maggio e direttore della rivista Abitare. Il Metal Mezzadro chi è? È l'operaio metallurgico che esce dalla fabbrica e si va a coltivare un orto. Non a caso la maggior parte delle case del social housing che si è sviluppato con l'edilizia popolare degli anni 50, degli anni 30, si basava proprio su questo principio, quindi una piccola residenza con attorno tutta terra da poter coltivare, e questa cosa piano piano con l'aumentare della densità della città è andata a smarrirsi. Quindi il nostro intento appunto è ricreare questi spazi che sono anche spazi di socialità, di scambio intergenerazionale, di scambio interculturale, e andare appunto a far sì che diventino spazi dove si possa andare a tessere la tela del sociale. E sì, ci siamo posti come obiettivo quello di far partire un iter di progettazione partecipata, cercando di interpellare tutti quanti i residenti nella zona e cercando di far capire loro che andare a fare una coltivazione sul giardino di casa o sotto alla propria abitazione possa essere un modo per cercare insomma di spendere di meno con la spesa e al contempo vivere il proprio vicinato e per farlo diventare un vero e proprio luogo dello stare, così quindi un alto valore sociale dal punto di vista sicuramente del cittadino, ma anche un'importanza notevole per quel che riguarda la riqualificazione di quelle zone industriali popolate da questi scheletri di vecchi capannoni e di vecchie fabbriche che circondano le nostre città. Sì, chiaramente noi abbiamo fatto una richiesta per accedere direttamente all'interno di queste aree. Purtroppo per questioni legate alla problematica della bonifica, non a caso l'area che ci stiamo prendendo di petto, diciamo così, ricade all'interno di un piano di interesse nazionale per la bonifica, quindi sono stati stanziati dei fondi e presto verrà liberato tutte le sostanze tossiche che si sono andate a sommare anno dopo anno sul terreno. Ecco, una zona inquinata fuori da Terni, nella zona dell'anificio Gruber e vicino alle acciaierie, dicevamo. Sì, sì, in realtà Terni ha una relazione strettissima con l'acciaieria, quindi è a pochi passi dal centro storico, e questo lanificio si trova tra l'acciaieria e il centro storico. In realtà è una zona abbastanza centrale, quindi è pure un certo interesse. La problematica appunto è che non possiamo coltivare a terra, quindi la nostra progettazione architettonica si basa anche sulla creazione, sull'ideazione di vasche dove si possa andare a coltivare con terra riportata non contaminata e dove si possa andare così a fare un intervento che sia anche di abbellimento delle aree verdi o delle aree dismesse, questi spazi di risulta che non sono utilizzati. Ecco, il nostro interesse principalmente ricade sul riqualificare questi spazi che non hanno alcuna identità, ecco. E l'orto può diventare l'identità di questi spazi. Tra l'altro la vicinanza con il lanificio Gruber, e noi sappiamo che presto questo spazio dovrà essere riqualificato, ma come verrà riqualificato? E questo è l'interrogativo che ci siamo posti noi e che vogliamo porre al comune, andando a testimoniare il fatto che ci sono molti residenti che vorrebbero utilizzare questo spazio secondo delle logiche che non sono percorse attualmente in questo spazio. Avete raccolto in questo senso un po' di consenso, nel senso che riuscirete a sviluppare questo piccolo progetto nella zona limitrofa in Vasche per ora, perché appunto qualcuno dei cittadini in effetti vi ha sostenuto, è piaciuta l'idea. Certo. All'assemblea che si è tenuta la settimana scorsa, quindi andremo a fare andiamo a curare una superficie all'incirca di 600 metri quadri, all'interno della quale verranno fatti queste coltivazioni, insomma queste piccole coltivazioni. Stiamo decidendo insieme ai residenti cosa coltivare, insieme a noi nel nostro staff c'è anche un agronomo che ci consiglia come andare a curare la terra, come andare a gestire l'acqua per annaffiare, che andremo a riprendere dalle acque reflue, insomma, tutte in cisterne, andremo a predisporre delle cisterne attraverso le quali posso andare a recuperare un po' di acqua. E per iniziare i lavori avete in qualche modo ottenuto un sostegno dal comune dal punto di vista economico o andate per la vostra strada con le vostre gambe? Stiamo cercando, visto che è un progetto interno dell'associazione, stiamo cercando di farlo andare con le gambe proprie, quindi cerchiamo di spendere il meno possibile, chiaramente un minimo di budget ce l'abbiamo, ma si tratta di qualche centinaio di euro, veramente pochissimo. Per il resto i materiali che utilizzeremo per la costruzione di queste vasche sono materiali di recupero e stiamo costruendo queste piccole strutture per andare ad accogliere la terra ed in seguito il frutto della terra. Comunque ecco, il principio su cui ci siamo basati è quello del riuso e del minor peso possibile dal punto di vista economico su ogni soggetto che interviene in questa operazione. Quindi ecco, speriamo che questo possa far capire anche alle persone del vicinato che andare a fare un intervento del genere non significa avere un impegno economico importante, ma principalmente un ritorno economico, non solo economico, ma per l'appunto anche di socialità. Anche per questa sera siamo giunti in conclusione e ci salutiamo qui, appuntamento a domani.